Radio 24 Reportage. Saterema Uè, i guardiani della foresta, di Gigi Donelli. Obadia, chi sono innanzitutto i Saterema Uè? Saterema Uè è un popolo indigeno del Brasile, dell'Amazzonia brasiliana. I Saterema Uè sono un popolo dell'Amazzonia brasiliana e noi siamo qui questa volta per incontrare i nostri partner qui a Milano. Incontrare i nostri parceiros. Boa noite, Parintins. Boa noite aos ouvintes da Rádio Alvorada de Parintins. A partir de agora, você ficará com o programa Wará, na apresentação de Eudes Batista, Eliseu Ferreira, aqui pela Rádio Alvorada de Parintins. E na mesa de áudio, Abílio Júnior. Partner em que coisa? Em que projeto? Tem vários projetos, né? Como, por exemplo... Partner, em geral, são os partners do projeto Guaraná, que nós estamos sviluppando há 15 anos. E in particolare qui a Milano c'è l'ICE, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, che dal 2002, con un secondo progetto adesso, sta accompagnando il nostro lavoro in area indigena. Sta sendo sviluppato nuovamente. Qual è il luogo, la terra da cui venite? Ce la può descrivere? La nostra area è di 780. La nostra terra è di 800.000 ettari. E è una terra che ancora oggi è 70% foresta vergine. Che è virgine ainda, né? Então nós, nossa população è di 11.000 a 12.000. Sono 11-12.000 persone che vivono dentro l'area indigena, ma ci sono anche dei satere che vivono nei dintorni, un migliaio nelle città vicine. Viviamo di agricoltura, la nostra principale attività produttiva è il guaranà. La prima economia è San Guaranà. Mikari kari wa sehai. Puru veiti wa kui kwa banyumbara antoina entomi muha. No programa de hoje, nós vamos abordar as instituições social. Área indígena, onde o governo brasileiro demarca, né? Allora, a terra indígena são territórios demarcados dallo Estado como patrimônio dell'Unione Federale e riservati ai popoli indígenas. Loro não ne hanno la proprietà, ma ne hanno il diritto all'usufrutto esclusivo. Nós temos o direito de uso fruto do exclusivo dos produtos. Você está ligado na Rádio Alvorada com o programa Uará. Foi na Constituinte de 1988 que as instituições indígenas começam a se organizar, principalmente o direito à demarcação das terras. Maurizio Fraboni, perché si parla di genocidio culturale? Nel senso che c'è un discorso ideologico sulla educazione differenziata. Teoricamente i maestri di scuola sono indigeni e insegnano nella lingua materna e questo dovrebbe essere ed è una conquista del popolo, di tutti i popoli indigeni. Succede però che i programmi scolastici, il tipo di formazione che è veicolata non è una formazione che parte dalla cultura tradizionale, dalla valorizzazione della cultura tradizionale come una cultura viva. E il risultato è una progressiva integrazione, una perdita delle conoscenze tradizionali, una perdita dell'identità culturale e una sempre maggiore tendenza a migrare verso la città e cercare un futuro in un'integrazione che poi di fatto è un'integrazione subalterna nella società. In questi 15 anni c'è un mutamento, ma è sempre in corso la stessa sfida che ha fatto nascere il progetto, cioè riuscire a far sì che entro un tempo che è una scadenza di vita, la speranza di vita che possiamo pensare per questa grande conquista che sono state le demarcazioni dei territori degli indios, si riesca a far sì che una, due, tre o tutte, ma tutte è un po' difficile, le comunità indigene siano in grado di mostrare che fanno qualcosa della loro terra che abbia un futuro, che abbia un senso nel futuro. O si fa qualcosa del territorio, si è in grado di portare avanti un progetto integrato di etnosviluppo, si è in grado di poter dire alla società brasiliana: guardate che ci sono lì 800.000 ettari per 12.000 persone, non sono troppi, noi stiamo facendo un servizio per il Brasile e per l'umanità. Questa è stata la scommessa del progetto Guaraná di Satere Mauè. Se questo non succederà, ci sono le richieste di minerazione, ci sono i tagli degli alberi, ci sono la frontiera agricola che avanza sulle monoculture per l'agrobusiness. Insomma, c'è un destino segnato a meno che non si sia in grado di mostrare un modello di sviluppo diverso. Não foi diferente o povo Satere Mauè. Hoje eles estão organizados. Giacomo Morandini, si parla di morire a termine. Ma il programma di CEI per l'Amazzonia è un programma che vanta già 7 anni di presenza a quelle latitudini, particolarmente nello stato dell'Amazonas, che è un po' il cuore della foresta amazzonica, con una serie di problematiche che anche gli stessi brasiliani oggi risentono. E il progetto che stiamo sviluppando con i Sateré è un po' una sfida, e di questo ne sono coscienti anche loro, ossia o troviamo il modo per sviluppare un sistema economico che sia sostenibile socialmente e ambientalmente, oppure, come diceva Maurizio, i poteri forti gradualmente assorbiranno anche questo piccolo paradiso, in un certo senso. Parliamo un momento di soldi. Come si rende sostenibile economicamente, attraverso quali strumenti, questo progetto? Ma io penso che i nostri amici alla radio avranno sentito parlare di Chico Mendes, e mentre Chico Mendes aveva intuito la possibilità di trovare un'economia sostenibile in sintonia con la foresta, ma era un'intuizione, oggi noi abbiamo la dimostrazione concreta che è possibile, cioè i prodotti che provengono dalla foresta, chiamati in Brasile forestali ma non di legname, cioè essenze forestali, liane, pollini, fiori, bacche, semi, eccetera, sono in grado di produrre una diversità tanto grande di prodotti da utilizzare nella cosmesi o nella farmacologia, che riescono a garantire anche la sussistenza dei popoli che abitano nella foresta. E la cosa più interessante dal mio punto di vista è che anche la popolazione brasiliana e anche i Sateré sono coscienti di questo, ed è un po' la sfida dei leader dei Sateré di riuscire a trasmettere o trasferire all'interno dei villaggi queste nuove possibilità. Sateré, Sateré, Satere Mauè, Sateré, Sateré, Satere Mauè, Ouro, Pati, Majuru, Tapajós, Marau, Andirá. Muito bem, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 24, que a partir de agora vão ficar em sintonia com o programa Wará. Você está em companhia da apresentação de Eusdio Batista aqui pela Rádio 24. O programa Wará. L'obiettivo del programma Wará è quello di informare sul lavoro che si sta portando avanti in questi 15 anni attraverso il progetto Guaraná. Bom, primeiramente, o alvo maior è o povo Satere Mauè. Il pubblico su cui noi puntiamo principalmente sono le comunità Satere Mauè, perché esiste un problema di comunicazione molto grande e non è facile far circolare l'informazione. Bom, principalmente è un programma educativo. Stiamo cercando di riscattare, rivitalizzare la cultura, e lo facciamo trasmettendo in due lingue, trasmettendo in portoghese e anche in lingua satere. Sì, il risultato è sorprendente, perché è un meio di levare. È sorprendente per lui, perché permette di far arrivare l'informazione senza direttamente nelle case delle persone, diciamo che è una forma diversa, perché normalmente si deve chiedere permesso, c'è tutto un cerimoniale, eccetera. Quindi no, in questo modo si arriva proprio a una comunicazione diretta che è propria realtà deles attraverso la lingua nativa. Ecco, questo non è un modo in qualche... abbiamo parlato molto di equilibri tra culture, tra, diciamo, strumenti che vengono dall'esterno. Questo strumento non rischia di destabilizzare un po'? Perché alcuni strumenti sono positivi e altri no? Lei ha detto la radio è sorprendente, ma l'ha detto con entusiasmo, chiaramente, che io condivido. Bom, è positivo perché esse è un dos grandes... da nossa fragilidade da questão da informação. É è positivo, è perché il problema è la comunicazione tra loro. E loro sono pochi, il coordinamento che porta avanti il progetto, sono poche persone, e quindi c'è la possibilità di fare questo ponte, e c'è una grande soddisfazione quando gli rispondono, non tanto che è bello il programma, ma lo riceviamo bene. Cioè, è la comunicazione in sé che è già un valore positivo, che è qualche cosa di nuovo che prima non c'era. Sta chegando legal essa informação, não só o povo indígena, mas também as comunidades caboclas, que é onde chega ao meio de comunicação. Está na hora de acordar e sintonizar o seu rádio, pois a partir dessa faixa de hora, fique na companhia do programa Uará. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.